Motherfuckers need change. Questo disco è la mia riflessione per il nuovo millennio. Mi fermo e prendo atto adesso della posizione sociale che sul conto decisionale non conta niente. Figlio di una verità intervalente, intercambiabile come un soldato morto in guerra, lottizzata sulle reti Rai da chi governa. Ho ogni giorno una conferma che negano, passano finte verità storiche da una coppa d'erbe. Ecco qui è un relativismo diffuso nel buio, nella società della regione tutto pronto all'uso. Noi figli di un consumo mediale viviamo ribellioni singolari e sempre frammentari. È una droga cerebrale che mi dà suefazione, la cultura schiava del potere in questa distribuzione. E all'accesso della giusta informazione c'è la giustizia di cui tu rilevi il decesso. Benvenuto nel newsmaking, tu credi che è vero? Fatti veri sono dietro di vieti. Dalla censura all'informazione, alla fazione, alla manipolazione. Esito seduto, venuto nel newsmaking, tu credi che è vero? Fatti veri sono dietro di vieti. Dalla censura all'informazione, alla fazione, alla manipolazione. Esito seduto, abbiamo immagini del mondo soltanto parziali, viste superficiali, scordati sguardi globali. I loro notiziari offuscano bulbi oculari, messaggi funzionali a logiche subliminali. Nel supermarket dell'informazione sopra gli scaffali è sempre più evidente l'omologazione. Trovi prodotti preconfezionati per ogni occasione, cambia la confezione secondo il consumatore. Se l'editore, imprenditore, il conflitto è imminente, tocca fare attenzione e non urtare il suo interesse. Ma l'emittente commerciale dipende dall'acquirente, sciocco chi pretende verità, video trasmesse. A noi la scelta, restare marionette oppure risalire il fiume raggiungendo la sorgente. Tocca una presa di coscienza in un tempo imminente. Ad occhi parla di rivoluzione, sta braccia con sé. Benvenuto nel newsmaking, tu credi che è vero? Fatti veri sono dietro di vieti. Dalla censura all'informazione, alla fazione, alla manipolazione. Esito seduto, benvenuto nel newsmaking, tu credi che è vero? Fatti veri sono dietro di vieti. Dalla censura all'informazione, alla fazione, alla manipolazione. Esito seduto. L'informazione è una ricchezza fine a se stessa, che se non trasmessa certa come muoia. Il dono della parola in gola ancora deprezza. Commentari come da vuota venire di nota. Le aggregazioni di borsisti, i giornalisti assenteisti che voglio che la penna si muova seguendo il tracciato dato dal mercato e da tutti i miei rischi per buonisti di finta morale plateale, dato peso marginale a quei pianisti geniani post provvisti cronisti da oratorio, rinnegano i colpisti. Ma poi voglio il monopolio, te quando scrivi non farlo mai senza riflettere anche su periferico in etere. Vivo di repliche vivi tutto in modo molteplice, sorprese vedi di dimenticati di rimedi e finte etiche. Benvenuto nel newsmaking, tu credi che è vero? Fatti veri sono dietro di vieti. Dalla censura all'informazione, alla fazione, alla manipolazione. Esito seduto, benvenuto nel newsmaking, tu credi che è vero? Fatti veri sono dietro di vieti. Dalla censura all'informazione, alla fazione, alla manipolazione. Esito seduto.